No, non quello, no. Aspetta, c'è qualcuno sotto. Chi è che vuole entrare? Io non entro nessuno. Aspetta. Un ponte c'è. Cazzo, un ponte ripetitore. Ah, quello c'è sempre. È un testa di minchia che l'ha messo. Se l'avrebbe messo in culo avrebbe fatto meglio. No, ma non era qui, no. Non era la roba di stasera, è di propagazione. No, no, già lo so io chi, non ti preoccupare. A futtidini, ignoralo. Marco, mandami sta foto, io. Un attimo che sono impedito. Sono un atto impedito, ciao Antonio. Ciao Marco. Ti mando quella che sto usando io, che l'ho trovata dentro l'armadio. Marco, sapevo di averla, guarda. Adesso te la mando, se si vede, non lo so. Comunque un 599 a fronte inestraibile della Linco. Battagliero, c'è anche la M addirittura. Bande aeree parte da 115 a quasi 200. E poi Antonella, ti ricordi dove ascoltavamo i telefoni? Sino a 600 rotti megahertz arrivo. E vabbè, telefoni 450 so. Cioè quelli di una volta, poi da 457 a 1000, a 900, poi a 900, poi da 900 a 1200. Poi vabbè, adesso la questione è cambiata. Questo è un Caterpillar, funziona alla grande. Funziona. L'ho messo in PMR, adesso lo metto l'antenna singola, così la C510 stacco il duplex e lo riattacco al 780, perché se no rimango senza antenne. Domani me la piazzo la XC50. Sì, Marco, va bene, ottimo. Mi hanno già accennato Antonello, anche questo, se mette in scatola e si rivende. Trattanto è roba che non uso più, caro, anzi che non ho mai usato. C'è un amico che lo sta cercando uno, se mi dici quanto, mandami un vocale e te lo faccio vendere subito. Cos'è, bibanda? Sì, ma non fu duplex, ovviamente. No, ne ha fatto nulla, intanto lui lo usa qua. Dimmi quanto, te lo faccio vendere. Ci sto pensando, dai. Sto valutando. Va bene, signori, dai, io vado a finire. Effettivamente, corretti per me. Un saluto a tutti, una stretta di paletta e alle prossime. Ciao a tutti, ciao. Ti prendi Antonio. Ehi, a cazzo di spagnolo di sento sotto, allucinante. Ti volevo dire, forse quei due portatili che mi avevi detto, accettato l'altro giorno, te li faccio far fuori subito. Ieri è venuto un amico che lavora in una vicinanza, capito? Si hanno preso quei famosi 888 e lavorano nella frequenza 462 e volevano in pratica modificarli e usarli, cioè voglio in pratica usare i canali PMR. No, Marco stai dicendo. No, io ne ho 5 di portatili, ma me li tengo tutti 5, anche perché 2 sono DMR, quindi mi servono per fare prove con Gianfranco, eccetera. Va bene, Antone, dai, anch'io ti saluto che è pronta la cena, ok? Già ci sentiamo. Ci sentiamo comunque, aspetta, mando la foto a Marco di questa e di questa, a vedere qual è la migliore. Ne ho 2 di veicolari belli funzionanti tutte e 2. Ok, dai, ci sentiamo, vi saluto, ciao Cla, ci sentiamo alle prossime, stavi bene. Ciao Marco, ci sentiamo alle prossime. Ciao a tutti, ciao. Certo, il canale Santiago 5 arrivano qui. Anche a me mi arrivano, ma più bassi, perché io c'ho la verticale, tu c'hai la direttiva, magari puntata verso di loro. Mi apre un po' lo squelch, ma non mi dà fastidio, tu magari lo ricevi meglio perché c'è la direttiva, è normale. Dai, ci sentiamo che è pronta la cena, Antone, ciao, più tardi se coincide, sono a domani, ciao. Ciao Claudio. Ciao. Ciao Claudio, ci sentiamo, avanti che è salutato a Claudio. Tony Pompucci. Ah, ciao Tony. C'è propagazione sotto di noi, c'è. Sento le Canarie, non ho mai sentito. Ciao, io non sento nessuno, guarda. WhatsApp. Tony, mio è Tonino. Ehi, ciao Cla. Tu non mi risponde, Tony. Non mi senti, Claudio? 1, 2, 3, prova. Se non mi schiaccio il microfono, come faccio a sentirti? Adesso sì. Forse non l'ho schiacciato bene. Infatti, ha giubito. Beh, ci aggiorniamo dopo per pronta la cena, Tony. Scusa, buona cena, Cla, ci sentiamo. Ciao, avanti, Bobuzzi. Ciao, Cla, dopo. Ciao, che è Marco. State così, arrivi qua, eh. Arrivi bene, Tony, a voglia. Anzi, io ti sentivo addirittura dalla macchina. Col portatile, con lo V5 di Plus. Ho messo la magnetica. Un metro dall'altra, in quella di Giovanna non ti sentivo, invece in quella che c'era dopo, spostata di un metro, parcheggiata allo stesso modo, allo stesso punto, arrivai perfetto, arrivi via di fornitore. E cappa, e vabbè, sto usando quello che sto usando, la mini Grand Prix, dai. E già funziona bene, a voglia. Ma forse ho qualcosa bloccato, non lo conosco bene, se c'è lo squelch inserito, deve uscire, mi ha detto già 50 watt, forse non sta uscendo 50 watt, cos'è nel gioco? Boh, non lo conosco. Torino? Sì? Arrivi, quante pomponi, figurati. Ciao Marco da questa parte. Dai, un saluto a tutti che guardano la TV. Comunque ottimo il segnale, ottimo tutto, c'era il segnale di pomponio e ho detto tutto. Ok, grazie, ciao Marconi, ben sentito. Esce bene, a voglia. Ce n'è anche per i pozzi, cioè. L'ho provato, mentre quest'antenna me l'ho regalato, questa mini Grand Prix. E a quanto pare sta andando bene, dai. Non è per la 27 questa mini Grand Prix, si intende. Allora siete a questa. Cos'hai detto? Cioè, le canali ci sono. Sento come se fossero qui. Io non sento nessuno. Ho la ricezione chiusa qua, lo squelch, non è il gioco, boh. Segnale 1 sta arrivato questo, allucinante. Ci avrai lo squelch da mettere senz'altro la cosa, al minimo, a 1. Vabbè, poi già una volta che entri nel menu già era cazzato a farlo. Tutto sta entrando nel menu, infatti. È scritto oggi per barattare un campo, io anziché lo minimo anche, ma. Sei peggio di me, sì. C'ho un pacco di cose da leggere per poterlo gestire questo apparecchio qui. Fa un sacco di funzioni, capito? E quindi ho lasciato così come me l'ha dato Marco, per quello che lo stavo usando l'apparecchio. Anche perché di solito usavo sempre portatili oppure barattino normale, quello sulla 27. Vabbè. Ma comunque, per quello che, insomma, già va bene, dai, piccolino, almeno c'ho il microfono, non sto lì a stare di un portatile in mano, che. Adesso chiamo questo, aspetta. Ora Spagna, escucha Italia. Ora Spagna, escucha Italia, stazione Alfa Lima che ti sta chiamando. Non ce la faccio a cacciare il ponte, c'è un ponte e pappagallo stanno usando. Io non sento nessuno. Cazzo, io sento da ieri. Se giro l'antenna, la punta Alghero, li massacro. A me è parito, è scesa la propagazione. Tu figurati, l'anno scorso quando c'avevo il motore, ho pensato il motore della direttiva, quella della parabola, quando giravo la batteria Alghero sentivo i traghetti della Tirrenia, sentivo chiari, sentivo bene, chiari proprio. Poi il motore si era gribbato e l'ho preso e l'ho messa a fissa puntata a Monteo. Ma se la giro poco a capocaccia, guai. Se la giri che cosa? L'antenna? Io sono in direttiva, che sto ricevendo, non è che stia ricevendo omodirezionale. Se la giro la punto di Alghero è una cosa allucinante. E che sono qua. Fosse stato dove abitavo prima, tanto tempo fa, ci avevo parlato in diretta con le Canarie. Che era una cosa allucinante, tu immaginati 27, parlavo come tutti i giorni, d'inverno, d'estate, con gli spagnoli, se lo ricordo faceva che cosa, parlava Iva di Monte Oro, o se no Domenico Cristal. Ma Tony, tanto tempo fa, quando tu abitavi giustamente prima, ovviamente la frequenza era diversa. E c'era più propagazione, è vero per più nulla. Perché la maggior parte ormai hanno scelto, cioè CB ce ne sono pochi, non è che ce ne siano molti, ormai vanno tutti in CB Talk, capito? Usano quell'applicazione e vanno a parlare di lì. Però nel periodo del Covid c'era poca gente su Facebook vendendo cercando baracchini, cose del genere. Adesso è pieno di gente invece che sta vendendo apparati vintage, figurati. E sono i siti che come si chiama, l'incontro che c'è, adesso era pieno, adesso sono tutti spariti, so. Molti ci sono anche OM e molto fatto. A me con lo Cibital che con lui ho passare dai. Ho provato, non mi piace nulla nulla. E l'hai provato nazionale. Però se vai con Cibital il locale è già. È bellino grazie a usarlo perché senti tutto Sassari e poi arrivi fino a Tiesi e Castel Salto. Oh, ieri giocando col telefono sono andato a finire una chat, una video chat, e ci vedevano tre persone, una donna col marito, poi c'è un'altra anziana e un altro tipo, e mi ha detto: e chi ti ha fatto entrare? Chi è che mi ha fatto entrare? Nessuno. Io sono entrato e mi sono entrato, poi basta. Come si chiama? Tony. E cognome? No, guarda, a me non mi piace dire cognome, non l'ho mai detto, non lo dirò mai. E insomma, sono stato il picco pallino qua a spinghe, alla fine ci mi ha detto, non ha male circolato. già avevo una cosa del genere io, quelle video chat che ti inserisci, poi vogliono a fargli il regalo eccetera eccetera, cazzo, a di là non saranno, mi sembra che la Bigo, una cosa, se non mi ricordo male, questa me l'avevo messa, ma fa schifo, pazzia, poi ti dovevi mettere tipo in vetrina, no, ti dovevi mettere e la gente ti chiamava, hai capito, cazzo, ma tutti i maschi mi chiamano a me, cazzo, ma con la femmina, giusto, per sbaglio. Ah, però adesso ho cancellato tutto. No, cosa era per fare scherzare, una fare del genere. Beh, io ho provato a entrare e sono entrato, mi hanno fatto tempo di entrare. Nessuno. C'è scritto le tre chat, sono entrato e eccomi qua. E c'era il mio video. Entro di ore, Tony, ma va che la chiesa, perché io prima me ne sono stato e stavo in ascolto, e quello ho chiamato, Tony, ma vaffanculo, gli vedo e aspetto tutto quanto, abbia luce. già è così, no, io avevo scritto Antonello, capito? Apparivano tutti i nomi, una persa all'altra, finché non arrivava il turno tuo potevi chiamare, se ti faceva entrare bene, se no pazienza, ho preso e ci hanno mandato in tutti, non me ne fregava niente, ho preso e l'ho cancellato, e già la faccio entrare in quel video chat così, un casino era. Ma voi è abbastanza educato che se non ti entrare, capito? A tu sicuro se vuoi sapere il mio cognome? No! Ho detto il cognome tramite, non mi conosco, quindi non me ne ha fatto nulla. E il mio nome è Bassa, ciao e vai. Hai fatto bene. Perché mi dai il cognome, non sei obbligato. Basta entrare con un nominativo normale e gli va bene lo stesso. Poi se ti vogliono chiamare ti chiamo, se no se la toccano quel posto. E allora, va. E vabbè, Emanuele che ce l'ha fatto? Boh, non lo so. Ma tra la gente, ho fatto un bel mobiletto come l'ha voluto lui. Grazie, ieri ha cambiato, lo vuole ancora più alto, ma che ce l'abbia anche io mai detto prima, boh. Cos'è che vuole più alto? Palo. Altro piano. Boh, ma dimmi tu. Devo dire. Comunque già va bene come ha messo la grampa, non è che vale male quell'antenna. Sta uscendo bene. Se l'avessi magari spostata, non so se l'hai messa sotto la mia 27 L, se la sposti di 2-3 metri va molto meglio. Attenzione mia è alzare ancora il palo, e dove la posso spostare? Io siccome ho trovato altro capo in più, sto pensando di metterla tutta l'altra parte dove c'ho la pompa, il rubinetto esterno. Questa fine metterà 8-9 metri. Cioè, va bene, basta che gli fai l'ancoraggio però. E se no d'inverno con i temporali che arrivano è un casino, se arriva, no, passata di vetro te ne butta il palo in terra. Perché il palo telescopico non è che ti puoi tirare molto, si piegano subito, si piegano. Vabbè. Puoi tirarti. No, ma mi sollevo con la del baracchino, mi sollevo. Altri 2-3 metri. Quello lì faccio 6 metri, non di più, già va bene. Però voglio cambiare posizione. Eh sì, voglio dire sì. E il fatto che c'è il soppartetto non ci puoi salire, se no avessi messa due staffe lì soppartetto e va a far cuffia. Solo un casino. Comunque già hai posto al limite, gli fai due staffe lì dall'altra parte e la piazzi dall'altra parte. Bisogna vedere pure perché dall'altra parte questa antenna riesce a uscire bene, anche quello bisogna vedere. Ah, io già penso che esci bene. Io quando sono venuto da te l'intenzione mia era metterla dove c'era quella finestra lì, un po' più avanti della via 27 L, cioè quella finestra aveva messo una gaffa a pipetta modificata, l'avrei allungata di più e dopodiché le avrei saldato all'estremità del tubo direttamente il palo e da lì l'avrei sollevata, avrei fatto il basamento in terra per dire con un po' di cemento e l'avrei sollevato il palo da voi, avrei messo tre tiranti a voglia, basta che superi il tetto della casa. Antonè, non sono padrone io di fare certe cose, capito? È anche troppo che mi hanno fatto installare questa antenna qua. Tu pensa che una volta abitavo vicino a lì, adesso non più su abito, metto lì dipendente e qua quando ho fatto cadere casa. Quando ho messo la parabola per... cos'era quell'affare internet? Ma è tutto così questa schifezza? Cioè perché ero in basso, capito? Invece qua sono distante da lì e quindi non è che ci battono molto la antenna qua. Quindi non posso, io guarda, il coso mio era fare anche una tabullana piena di cemento a voglia, anche se mi usava 10 quintali, mi ha fatto sai, una tonnellata. Però ripeto, non posso fare molti lavori, avevo intenzione di fare molte cose ma non le posso fare. Vabbè, non è casa tua, è quello il problema. Magari quando ti andrai in pensione, con i soldi che ti danno, prendi e ti pigli una bella casetta. È tua e ci puoi fare quello che vuoi. Tanto con questo affare che ormai le case costano la metà, già si busca una villetta piccolina. E sei tranquillo, puoi farti i lavori che vuoi e la casa tua non devi stare presso il padrone di casa, anche quello è un problema. No, ma intanto guarda, io non molto intorno con la 50, quindi l'intenzione mia è questa, aspettare che vado in pensione, PFR di 23 anni, sono benedina, ci vendiamo con la casa là e ci abbiamo una casetta in campagna in vicinanza di Sassari, anche tanto in Sassari. Pacari dai, meglio in campagna. Oh, il condominio, guarda, non ti conviene neanche andare. Ricordatelo, guarda, per il condominio ti azzuffi subito. Una villetta, come posso dire, a Monte Bianchino, oppure qui vicino all'alberghiero. Già c'è qualche casa che magari sta rodando. Una volta mi era capitato a me di fare un lavoro insieme a Daniele, questa signora qui in pratica voleva vendere l'appartamento che ci aveva fatto completo, garage, terreno, quanto c'era, in cambio di un appartamento a Sassari. Quando ho detto a mamma, ho detto, ma adesso facciamo il scambio con questa signora qua. No. Ho preso questo appartamento qui, me l'ha mansata e non voglio fare scambio per niente, mi ha detto. E tu guarda che lì, allora non c'era un negozio, non c'era Lido, non c'era... non ve la luta, ma con le BD c'era. E questa signora anziana qui voleva fare solamente scambio, anche con una mansarda, tu figurati. Se aver fatto la fare quella volta lì sei stato tranquillo, perché questo terreno qui è appena più avanti del tappettino, figurati. C'era una villetta a mattoni rossi, due piani, bella, con l'ascensore dentro, c'era nel garage, in pratica parcheggiavi la macchina, ci mettevi la roba dentro l'ascensore e salivi direttamente dentro l'appartamento. Vabbè, ma... Adesso è tutto un casino comunque, io me ne accorgo quando sono in città, ma dai, troppo casino. Invece qua non mi do fare male nessuno, già sei venuto qua, quindi metti la macchina davanti a te, e nessuno ti rompe le balle, e fai quello che vuoi, e sei indipendente. La cosa del genere, infatti. Anche io sono stata a fare così, adesso stiamo un po' ricevendo di Giovanna, se troviamo qualche cosa, di recente ci pigliamo una bifamiliare nostra, qua vicino a Monte Bianchino, per dire, o qua vicino alla Berghiera, già si trova qualche cosa. Appena c'è l'opportunità, vendiamo tutti e due gli appartamenti e prendiamo una villetta per familiare. Già va bene. Sì. E l'unica soluzione, ovviamente, Antonè, no, molto lontano, deve essere molto segreto, anche se è un casino. Lo so. Cioè, abbiamo anche quel terreno, ma non vale un accidente ormai. Ormai la casa che c'era, la casetta, è diventata un rudere, non ci sarà manco più il tetto, si è entrato. Quindi non ci si può manco arrivare manco con l'elicottero in quella casa. C'era un ponte e c'era il lampado in terra, quindi figurati. Già va bene, già va bene. Vabbè. Un attimo, la passa. Ehi, già siamo qua. Antone, Pupuzzi, Tonello. Dimmi tutto. Ehi, l'avevi telefonato durano poco, lo sai. Se l'hai già mandato. La buonanotte e basta, bu. Ah, ok, già va bene, allora. Io faccio cazzo, mi sono acceso il ventilatore, guarda un po'. Ah, io c'ho la finestra aperta. Fuori c'è umidità comunque. Non c'è caldo, c'è la leggera brezza, ma c'è un bel di umidità fuori. Ho notato, io stamattina sono stato con mal di collo, perché ieri sera lì c'eravamo io Giovanna, poi l'amico di Giovanna, eccetera, eccetera. Ci siamo bevuti un paio di birre. Ma pensavo di... Cioè, saltando fuori verso le 8, 8 e mezzo si comincia questa umidità qui, e poi domani mattina la sera non te ne accorgi, no? Ma stamattina mi sono stato con mal di collo, infatti sono rimasto a letto, non sono uscito per niente. Mi sono messo la crema. Io quando tu eri là, io ero già coricato, guarda un po'. Figurati. Già cucato devi. Ah vabbè, tu la mattina lavori, quindi è logico. No, io non ho lavorato niente. Peccato, mi ha svegliato Simona verso le 8, 8 e mezza a fargli il caffè e basta. E poi mi ha telefonato una tipa che come si chiama, mi sembra che costa lavoro, se non ricordo male. Mi ha scusato il telefono lì e mi ha mandato il buongiorno. Ma che cosa lavorio ce l'ha tutte quelle donne? No, intanto mi chiama. Mi chiama Remi. Però subito non me l'ha chiesto, eh. Niente soldi, grazie a Dio. Sono amici e basta. Mi chiama, mi dà il buongiorno, mi dà buonasera, buonanotte, eccetera, eccetera. Però richiesta di soldi, niente. Perché ho detto che ero tondo, tu se vuoi parlare con me, non mi chiede dei soldi, non mi chiede nulla. Tu fate il tuo lavoro e mi faccio il mio, gli ho detto. Se vuoi rimanere amica, non ci sono problemi, se no ce ne sono tanti, gli ho detto. Non ne cercano solo soldi, lo sai, no? Ah, no, a me i soldi non me l'ha chiesto. Mi ha mandato la sua foto e basta. Non mi ha dato altro, io gli ho mandato la mia, perché me l'ha chiesta e boh. Dopodiché siamo rimasti solo amici e buono. A me, persone così lontano non mi interessa. Se sono di Sassari è diverso, perché ci vediamo con caffè, ci conosciamo, però a me gente di fuori, per carità, è nulla, zero. Ah, c'ho buono fatto l'amicizia più che altro. Non è che vado di là, cazzo, la giocata di andare in Kiwi, no? A parte che se sono di che ci vogliono, non voglio fare la fine di uno che è andato a ritirarsi la ragazza che ho conosciuto su internet, è andato lì a prenderla e se l'ha caricata, hai capito? Ce l'ha portata qua stasera e avete insieme a lui. Scappa. Adesso mi professi Emanuele. Non si accende, scusa, ma la sua simpatia, allora, vediamo se lo trovo. Vabbè, oggi non ci siamo andati lunga, Emanuele. Quindi lo trovo molto, molto più avanti. Allora, dove c'è uscito? Cingomino. Emanuele, eccolo qua. Vediamo se mi riponte. Se non starà mangiando qualche pinza. Quindi ho addormentato, ma non prende. Io non penso che sia addormentato a quest'ora, no? L'altra volta abbiamo chiuso a mezzanotte. E Squilla, non rispondi, se ci commuove, boh. E magari in bagno, usa. Cazzo, si alza con la carta igienica in mano, va a rispondere al telefono. È bello che molte volte lo chiamo, no? Capita al mattina. E poi il pomeriggio mi chiama, ma chiamatemi anche. Cazzo, da stamattina, ma mi avvini. Sei esaurito proprio. Ah. Ora è tornando, Manuel. Arrivo lì, vado a chiamarlo, apri la porta. Occupato. Mi cazzo. Campanile rosso, qual è? Mi si butta a bozzi. Manuel! Apri la Iana, se vedo i nomi. Figurati. Ma io dico questo. Fatto 2 minuti con me, poi quando io ci facevo vicino quando l'ho chiamato. Credo che stavo arrivando. Cazzo, da c'è mano, occupato, e porca miseria, raga. E poi c'è l'inferno, non si attacca un telefono, non la vedi più. Figurati. Mi è arrivato un messaggio. Fiorita da Umbria mi manda sempre il leone, la tigre, tutto mi rimanda, il patera, boh. Figurati. E invece la lente però, e basta però, e che cavolo. Ma sono 27, non c'è nessuno. Sono tutti in giro, saranno. Io sono acceso, sono 10, però non c'è nessuno. È rientrato Riccardino dalle ferie. Ah, rientrato, Se ci sentiamo dopo. Dopo cena, perché lui sta per cenare. Altro che faccio accendere. Se non c'è mai nessuno, a te lo so. Tu prova a chiamare, qualcuno ti risponde. Hai fatto bene. Chissà se sento. Aspetta. Ok, questa è la frequenza della vigilanza, cioè la vigilanza, che usa la vigilanza ma la usa anche cinese. E che frequenza è? 462-125. Ma io non ci arrivo questo qua, oh. Sì, già ci arriva quello, non ti preoccupare. Ci arriva il coso, il doppio, cioè quello che il portatile che c'hai tu, e non ci arriva quello. Il Boffè ci arriva, gira. Sì, il Boffè che ci arriva, 462-125 ci arriva. E la frequenza di quei portatili che vendono i cinesi, li usano nei negozi, dentro al negozio loro via per la nieta. La frequenza è quella. E chi butta i vigili? E c'è il vigile notturno? Ehi, portierato fanno. Niente, mi devo fare una tabella io perché buono. Non so niente, dei canali, frequenze. Questo registrate delle frequenze che non sono annunta, Sì, ce l'avevo stamattina io quei portati, me li ha dati ieri sera, me li ha portati. Cioè, ieri sera andate a Giovanna perché altro, poi stamattina li ho presi io. Li ho guardati e ho detto questi sono gli 888 della Bofeng, questi portati. Che hanno tono squelci. Diciamo in pratica il canale 1, 422-125, meno male non lo ricordo perché avevo comprato due patate dai cinesi di via Napoli, io avevo pagati 2,20 euro, una cosa del genere. E mi avevano fatto impostare adesso mi corse da Marco per farle, per passare da quella frequenza lì a mettere di 8 canali PMR e 8 in LPT, però uscivano veramente forte quei due portati, poi li ho venduti perché ho giocato già questo ve le faccio di 4 portati, non ne faccio niente, me ne tengo due, quei due che ho e gli altri due li avevo venduti. Ecco. Beh, comunque bisogna fare una tabella, ne è una dei cinesi, senza svita però, tipo Baofeng. Però c'è una roba 7-8 canali, non fa del genere. Però per male nessuno. Quelli lì sono lì con due, nel lato c'hanno due pulsanti arancioni e sopra c'è la manopola dei canali, 16 canali. Tu lo metti sull'1 e corrisponde è a 462 e 125 la frequenza. Ma ah, veramente sono tutti neri, pulsante arancione non c'è niente, boh, è tutto nido. Nel fiacchetto non c'è, sono due pulsanti arancioni, solo nero. Solo nero, tutto nero. Quello che c'avevo in mano io ieri, anche quello che avevo comprato io, c'erano due pulsanti arancioni, uno serve per togliere il tono squelch e l'altro, se non mi ricordo, fa la, non mi ricordo se, no, la palina non ne ha, fa solo l'allarme, fa e basta. Beh. Se tu spiace, boom. Da quando l'ho comprato Antonetto, oggi con una bassa, boom. Vabbè. I primi che ho usato io per me erano i Brondi. Quello da primo piano, la casa di mamma, sono riuscito ad arrivare fino alla, passando con la 8 in via Umberto, fino alla ricoccia con Piazza Castello. Vabbè. Il mio mare non è batte manco la pura uscita, boom. E poi gli avevo regalato Antonello di Ussi. Antonello parlava tranquillamente da casa sua, solo i telai, e arrivava fino all'angolo di via Torino, dove c'è il circolo del fratello di Giuseppe. Capito. Il parito, peggio metto. 11 milliwatt a voglia. Fanno quei Brondi 2-3 km tranquillo, anzi se sei anche in zona alta anche più di 2 km fanno solo l'alto, perché c'era un ragazzo per un periodo scorso entrava in diciamo comprato di quei PMR così e parlava da come si chiama a far culo, adesso il nome non mi viene in mente, il giudice della Landricca, adesso mi viene in mente il nome. Ecco. Ma adesso vediamo, comunque lo svita è troppo piccolino insomma, io voglio uno che lo svita è grande, si vede bene, ma oggi pure i bicicli, bye bye da. Da tutto bella parlava, quel ragazzo, arrivava anche forte. E se c'è lo smith piccolo bisogna, non so come sia questo apparecchio che stai usando tu, io già c'è lo smith abbastanza grande, anche mi segna la frequenza, mi segna tutto, però il mio è, non è un VU, il mio è quello, fare tutte e quattro le bande, capito? Fa HF, VU e U. E anche questo dovrebbe essere un po' che F, V e U. È un veicolare piccolino, insomma, piccolo. Ha 10 centimetri. Ho visto uno ieri, l'Ali Selves, no, Ali Express. Un apparecchio faceva da 26 e 515 fino a 30, poi da 30 faceva i 100... non ricordo se era 108, 100, boh, quando andava direttamente in V anche, 50 watt in AM e 50 in altre bande, adesso non mi ricordo come si chiama, l'ho visto ieri in offerta. Ma per adesso mi accontento di questo qua, poi tanti quello lì era, ho fatto 18 euro, mi sembra, non ci dici. Ma mi piace, è tutto nero, non c'è niente svito, non c'è niente, fa di schifo, che poi se non ce l'ha ceduto una macchina, una scatola. Sì, ci vedi, ci sono ancora le coppie. C'è il Baofeng e poi c'è un'altra marca, JK, non mi ricordo come diavolo si chiama, aspetta, è arrivato un messaggio qua. Bello. Che cosa non va bene però, cazzo? Quel microfono che c'è tu per il mio, Marco. Tu c'hai la tastiera, ma io no. Io c'ho solo tre pulsantini e bu. Sì, sotto la tastiera c'ho il microfono. E mi ha mandato una foto, Marco, di un apparecchio. È bello. Pigliito. Posso fare anche tramite tutto dal microfono, cambiare canale e tutte queste cose qua. E aspetta che ti mando la fotometro, rimandatela, Marco. Aspetta che te la mando su WhatsApp. Sì. Hai visto l'apparecchio? Però, allora, il manopola... No, non è proprio uguale. Il microfono è uguale. Mentre invece l'apparato no, perché tu qua... C'è due tazzini rotondi piccoli e uno grande sotto. Io grande sotto non li ho. Il microfono è uguale e sopra che le tazzine hanno ragioni, non ce li ho. E sotto neanche. Ho capito. Aia, cazzo, mi è arrivato. Questi mi stanno oscillando, cazzo. 1380 euro di stipendio oppure 1570. Accedi ora al sito qui sotto, registrati la posizione vacante, cazzo, vai nel link, cazzo, non ti fa entrare. Sono una settimana presso mi sono questi stronzi. Io gli ho scritto di andare a fanculo, non giocano di farmi pigliare balugura da un macco. Gli ho detto, se mi vogliono lavorare, detto, basta chiamami al telefono, gli ho detto, e non devo diventare scemo, e non so manco dove la ditta, ho detto. A dirmi al telefono dove dovevo andare, e se la biglia in cosa la biglia. Ma tuoi? Ho capito. Penso che mi hai mandato la foto adesso, tuoi. No, Marco me l'ha detto di mandarti quella foto, mi è arrivata a me. Pochi minuti fa, capito? Metto di un'ortata a te, anche quello lo sta usando lui, quell'apparecchio. Cos'è? Se l'ha comprato lui o se l'ha fatto lui, cos'è? C'era lui quell'apparecchio, non ce l'ho io, lo stavo usando lui poco fa. Ho capito. Sì, è leggermente diverso dal mio comunque, io ce l'ho smitto al quadrato, al centro ed azzurro. Quando qui, il canale, cioè i numeri sono diventano rossi e dove parlo lo smitter praticamente è verde. Ho capito. Il mio già è arancione, cioè è abbastanza grande come apparato. Esatto, 3 cm per 3, boh, me lo rito. E quelli sono piccoli, ne avevo riparato. Riparano perché lo puoi riparare quegli apparecchi lì. Perché c'hai mica componenti, c'hanno. Se staccavo di quelli, sei buttito, sì. C'era la cosa, ma chi sono di quelli piccolini proprio, simile a quello, c'era la ventolina dentro, l'avevo smontato, ma non andava bene per niente. Sì, c'era la ventolina che la sento ogni tanto, perché era fredda. Io la giudo di ventolina, no? C'era la ventola dell'apparecchio e la ventola dell'alimentatore che c'ho sotto, mi vende lunga bacca come vendi, perché è rumorosa. Ma è vero che si guacciano e sono 50 watt? Se c'è scritto che ti dà 50 watt, ti dà anche il mio da 50. Sì, ma a bisogno sono uscito con un watt io. Non ci capisco nulla. E bisogna che ti dai il menu power e li metti la massima potenza. E nel menu come si fa? Sarà la tastiera. Ci sarà, ho sentito uno scritto tipo menu, eccetera, eccetera. Capito? Penso che ci sia. Non vorrei che voi vada a casino, vado. Cioè, troppi tastini piccoli ci sono. Tre rabatti e due lax sono 5. E due manopole. Figurati. O magari Gico te lo sa impostare quell'apparecchio lì, quindi è interessante. Quando lo vedi glielo chiedi, e mi sembra lui l'ha avuto uno di quelli. Lui già mi ha programmato il ricevitore che ho io, su questa frequenza qua. Allora fatti programmare anche quell'apparecchio lì, magari c'è impostata la potenza minima, non lo so. Fagli mettere la potenza massima, se c'è 50 watt, 50 watt ti deve dare. Ma comunque ha detto Claudio, riviene qua a vedere come mai c'ho manco QRM qua, non sento niente io. Deve entrare per forza nel menu per abbassare lo squelch. Deve andare al menu dove c'è scritto squelch, parti da 0 a 10, lo metti a 1, poi si fa il bofeng e così i segnali più bassi li ricevi. E tutto è scoprire il suo menu e sentire tutto quanto posso. E che mi torno il telefono, aspetta. No, un attimino, per X. Eia. Cicci. Cicci. Popuzzi. Eia, sono qui. Tutto fatto. E alla 50. Ah, ho capito. Gappa. Sto guardando il telefonino a vedere. Cosa c'è di bello? Che c'è un po' che di qua, sta cazzo qua. €15.000, una casetta in campagna. Bellina anche. Ma è 20 quadri, piccola. Ah boh, questo ecco subito, aspetta. Vediamo dove era. Giù messo, fa cuffia. E beh, quante metri quali sono? Non lo so, adesso lo dico, aspetta. C'è Coccasa. Aspetta, invia un messaggio al venditore. E ancora disponibile, informazione del venditore. Marco Conti. Dai, che fa parte del vendere lo scambio Sassari. Iscrizione a Facebook. Posizione approssimativa. Dettagli, vediamo un po'. Vabbè, c'è qualcosa di dipendente da quattro lati, zona Ferrara. Vai. E Begante? A Ferrara, zona di Sardegna. Non ho capito, Antonio. Che a Ferrara, Ferrara, il capito. Pensavo fosse la stessa ricchezza. Cosa ridere, mi fa un fake, che cazzo è che lo sta vedendo? Riesce a vedere. Radio trasmittente, dice trasmittente dual band 136, 174, 400, 480, 32 euro disponibile, uno solo, il cazzo che macco. A Olbia è. Sì, va, vabbè. Se vuoi glielo vedo io il mio. Cazzo, costo della spedizione lo aggiunge al costo del prodotto, 6 euro. Pagamento anticipato. Ecco, cari cazzo. Un Baofeng, ragazzi, 32 euro, ma anche fuori il KV2. No. Costano di meno, costano 25 nuovo, questo qua. Io dalle lucine ho fatto 20 euro, il Baofeng è quello portato, e va bene, bellino, Sviter, c'è tutto. È simile al V5 Re Plus, era. E di più Plus, in pratica. Costa 25 euro, nuovo, costa. Anzi, se vai su AliExpress, vendo 5 addirittura, se non ricordo male vengono intorno ai 20 euro. Comunque già va bene quel prezzo, dai. Fino a per i pucci ce n'è. E adesso vedo se ne trovo uno un pochettino più grande di questo, poco a poco, e lo Smith è un po' più grandetto, con prezzo abbastanza moderato lo prezzo. Zurich, Comici, 7003 base, stazione. Su AliExpress, aspetta, premo 4.965 euro, ne vogliono. E qui attacca solo al nasso. Ma è bello però, c'è il frequenzimetro, c'è tutto. Bisogna vedere questo cos'è. Questo è l'RS978SSB, HF-SDR. Vediamo quanto viene. 457 euro, questo già si può fare, già si può prendere, c'ha frequenzimetro, misuratore di spettro, fa da 1,8 a 30 MHz, 10 watt, c'ha dunque con 3800 mAh LI, non pacco batteria, in parte è un portatile questo. Il frontalino c'è, ah, quello deve sempre farlo illuminare, ho capito. Vediamo un po' come cosa c'è di bello. Ah, eccolo qui, Anitone AT5289 25615 30 e 10 metri. Vediamo quanto viene. 120 euro, 120,68 centesimi, farà 25,615 a 30 MHz, poi fa 105 MHz AM, 50 watt in alta potenza banda cittadina. Già, va bene. E sarebbe quello lì? Una macchina, un apparecchio da macchina. Anitone AT5289 si chiama, viene 120 euro e 68 centesimi, 60 watt di potenza c'ha, fa da 25 a 30 MHz e poi c'ha 105 MHz addirittura, evidentemente non so se è in trasmissione o cosa. Spedizione 24 euro, poi c'è il coupon in pratica, ti danno come sconto. In vantaggio di che arriva. Allora, io che te invece la radio online store. Vai al negozio, contatta. M60 watt. FM50. SQ funzione di scansione, chiamata di emergenza. CTCSS, DCS codice, un segnale acustico funzione. Funzione di blocco di tasti, funzione di OT, canale di memoria, NBNL, Roger Bip ed ecco, c'è anche l'ecco, c'è, figurati. Chiave di programmazione, programmazione PC, modalità WFO, frequenza d'ingresso, blocco del canale occupato, eccetera, eccetera. Bello. E vabbè. Tangente lì, ma gira. Va bene anche un piccolino me. Tanto mi pare ciuvo. Zeta che se vi ripete, aspetta un attimo. Sì, aspetta che te lo mando su WhatsApp, così lo vedi. Ecco qua, te l'ho mandato, guardalo. Perché arriva il messaggio, come è arrivato. Boh, non suona. Ma mandato lei. Ehi, aspetta un secondo. Non ho ricevuto niente ancora. Adesso sei arrivato, sì. Sì, adesso l'ho ricevuto. Ci sono tutti i cosi scritti. Visto che se ne fa poca roba, ragazzi. 30, 105 MHz, 20 AM, rep, massimo 60 watt, 20, 10, 10. E che roba fa? Ma questo è per la 27, CB radio. Guardati i watt che tira fuori. 60 watt e tira fuori mi in AM. C'è anche 105 MHz, figurati. Ho detto il prezzo non c'è qua. Sì che c'è il prezzo. L'ho visto poco fa scritto. Ah no, forse no. Comunque il prezzo è 120 euro e 68 centesimi. Cedo visto, AliExpress, euro 120,68. Ehi, all'inizio proprio, sotto le baracchine. Questo cosa vuoi, una carta di credito? No, pensavo che lo puoi pigliare qui. Dice bene? Allora, io devo registrare per poter acquistare. Ah, penso lo... prima vai nel sito e poi ti registri, non vuoi altro che fai aggiungere al carrello. E poi fai acquista ora, eccetera, eccetera. Penso comunque che ci vuole una carta di credito per forza. Tanto che io carta di credito non è che via internet o non mi fida, sai. No, già è un sito come ce deve questo, non è un sito di Bertola. Di tutto vendono lì. È un sito dove ci sono anche Bofeng addirittura. È scritto tutto in inglese, got to up. Stay. Il sito è Alex, AliExpress c'è scritto. Nel sito ti appare un quadrato rosso con una mezz'ora e poi c'è una mezz'ora bianca. Ti iscrivi, anzi ti scarichi il programma, poi almeno ce l'hai come sito. Da lì compri tranquillamente, capito, quello che vuoi. Ti arriva in pochi giorni la roba, assicurata e tutto. Poi ci sono i coupon che ti danno, in pratica sono degli sconti, capito? Beh, Antone, mi sta venendo il sonno e la mattina alle 5 sono in terra, quindi ci sentiamo, dai, ciao, buonanotte, alle prossime, ciao ciao. E ciao, poi ci sentiamo, buonanotte, alle prossime, ciao ciao.